must work untiringly so that our children are obliged to learn the truth. Because it is only through knowledge that we can safely protect them. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Verifica microfono 1, verifica microfono 2. Oggi abbiamo entrambi i microfoni funzionanti, signore e signori. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo messo un 70-80% di trasmissione, così un po'. Diciamo che potreste anche non ascoltarla in podcast quella. Peccato perché vi perdete. Qualche pezzo l'ho levato perché veramente sembravo matta. Matta, sembravo folle, sembravo matta. No, la parola del giorno, follia. Come mai ci dedichi un argomento del genere? Perché oggi è giovedì 6 luglio. A caso. Si chiude il piccolo ciclo che abbiamo dedicato alle figure retoriche, ecco. Con una parentesi sulla pazzia, perché il caldo ci fa diventare pazzi. Infatti meglio. Non è 6 ma 26, poi... Per dirla con un'iperbole, fa un caldo da pazzi. Ecco. E il ventilatore fa come il... alle... quando faremo la puntata sui detti volgari ve lo diciamo. Ma soprattutto sento un caldo rosso. Esatto. Questo è ci un sta. Caldo rosso. Oppure un caldo puzzolente. Sono entrambi, cioè hanno entrambe le qualità, sono sia rossi che puzzolenti. Eh sì. E quindi abbiamo deciso di fare in questa puntata una cernita di quelle che sono le figure retoriche più usate, quelle che ci piacciono insomma un pochino di più, e perché siamo pazze, facciamo una trasmissione siamo di linguistica pazze. In radio. Pazze. Siamo fuori. Sono Napoleone. E io sarei il cavallo bianco di Napoleone. Ah. E no, questo è il caldo. Quindi, discorso conclusivo sulle figure retoriche, con un po' di parallelismi con quella che è la letteratura. Mazza. In particolare con due, mi piace dire, i cadaveri squisiti della letteratura. Due chicchine, niente male, che sono l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam e un canto particolare dell'Orlando Furioso, che è La pazzia di Orlando. Potrebbe essere anche una puntata artistica, potrebbe avere un lato B artistico, un po' da... Stiamo spoilerando. Quello che faremo forse nelle idea, ma è un'idea venuta adesso e così come arriva se ne va. Che siamo andiamo avanti. Per quello. Però prima di passare a tutto questo, vi ricordate la figura retorica che è anche un disturbo cognitivo? Che dicevamo? È la sinestesia, per cui il nostro ragionamento è partito proprio da qui. Cioè abbiamo una figura retorica che ovviamente si trasla anche in quello che è il mondo della neurologia. Chi è affetto da sinestesia ovviamente non è pazzo. Però ci è venuta l'occasione, proprio abbiamo colto l'occasione per appunto fare un altro parallelismo, cioè dalla neurologia alla letteratura. Che cosa unisce un autore, un brano alla pazzia? Le figure retoriche, ovvero in alcuni brani che parlano di pazzia, che parlano di appunto questi stati mentali un po' alterati, ci sono figure retoriche che ci aiutano a classificarli meglio e che ci aiutano anche a farli vibrare, farli uscire, dargli un colore diverso, soprattutto per quanto riguarda la pazzia di Orlando. Vedi. Non vedo. Ma facciamo sentire una canzoncina prima Ma sì, di partire con dai. Lutz Gianche. Facciamo sentire qualcosina, ci mettiamo Questo è il mio lui che pezzo, prendeva è lui. Danacol, che prendeva Danacol e... Cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Sei un po' matta da legare. Sì, perché ho fatto questa puntata che è abbastanza Sono pazza. fuori di testa. Beh, in realtà probabilmente tutta questa cozzaglia di cose non ha nemmeno un senso particolare, cioè è un excursus, è un qualcosa che ci poteva servire per concludere, per far capire insomma quanto le figure retoriche servano appunto per dare un colore diverso a un testo che altrimenti... Certo. Allora, quindi dicevamo, se vi ricordate la figura retorica come disturbo cognitivo, e su questo nelle puntate precedenti avevamo parlato anche di un articolo di un sito che si chiama Scienza in Rete, firmato da Che è tutto un Carafoli, programma. esatto, e codato, che si chiama Sinestesia, figura retorica o condizione neurologica. E da cosa parte tutto questo? Dalle speculazioni di Lutz Jänke, che è un neurologo tedesco. Per forza, non poteva essere spagnolo. E quindi incominciamo col dire un po' che questo termine, sinestesia, viene dal greco sinaestanestai. Posso fare una pernacchia? Sì, vai. Vuoi leggerlo su? Che significa percepire insieme. Lo sappiamo, è una figura retorica arcinota che viene comunemente usata in ambito letterario perché serve ad accostare a termini che appartengono ad ambiti sensoriali diversi. E fin qua ci siamo. Ci siamo, sì. il silenzio verde, il caldo rosso che dicevamo prima, il caldo, caldo puzzolente. E quindi anche nella vita quotidiana li usiamo molto, senza scomodare ai giganti della poesia le loro licenze poetiche, dicono nell'articolo, no? Cosa che invece noi oggi faremo, li scomoderemo alla grande. Un pochino. Chi per esempio non ha mai usato almeno un colore caldo, una sensazione freddo, abbinandola a un aggettivo dolce o amaro, per esempio. E la maggior parte delle persone probabilmente però non immagina che la sinestesia appunto è anche questo particolare disturbo. Perché se è ovvio che un silenzio non può essere verde, esistono invece persone che effettivamente lo vedono così. E quindi persone che possiedono stimoli sensoriali di una determinata modalità, acustica o visiva, che evocano contemporaneamente sensazioni di una modalità diversa. Per cui quella gustativa, per esempio, che è il senso, diciamo, l'evento sensoriale più ricorrente all'interno della sinestesia come patologia neurologica. Quindi, e per questo la sinestesia, dicono sempre nell'articolo, entra tutto diritto nel campo della neuroscienza. Un gusto ruvido, una roba un po' così. Un gusto ruvido che si dice nelle pubblicità. Sì, viene usata spesso. No. Sì, sì, qualcosa del genere. No, era gusto lungo, la gomma del ponte. Ah, già. Si può andare, vero, ragazzi. Guarda, non c'era venuto in mente. Abbiamo un sacco di spot sempre in mente, ne abbiamo tantissimi. E poi quando servono, È sempre così. Vediamo un Vai, pochino questa out. Farfalla impazzita. Vediamo. Quindi dopo Little, c'è lui. Tony. Pola. Ah, no. Paul Anka, come direbbe mia nonna, che diceva anche, aspetta, John Vaine. Mi veniva più in mente, John Vaine. Pronti a partenza via. Guardo gli occhi tuoi, ci siamo solo noi. Un sorriso e poi non so più dove sei. No, no, oh, vola la farfalla impazzita, ah, ah, era quasi fra le mie dita, ah, ah, vola nell'immensità. C'è lontana dove andrà, chi lo sa, nel cielo vola la farfalla impazzita, ah, ah, se ora sto ridendo la vita, ah, ah, io lo so ritornerà, perché le cerca sempre il sole, cerca sempre il sole, le cerca sempre il sole e ci sarà negli occhi miei. Nel silenzio lo so, ascolti la mia voce, ma se ti parlo tu non mi senti più. No, no, ah, ah, sfiora sorridendo la vita, ah, ah, io lo so ritornerà, perché le cerca sempre il sole, cerca sempre il sole, le cerca sempre il sole e ci sarà negli occhi miei. Eccola che si è posata, io vedo le sue ali colorate, è ferma, è molto vicino, allungo la mano, la prendo, questa volta non fugge più, non fugge più, no, no, no, voglia la farfalla impazzita, ah, ah, ci ora sto ridendo la vita, ah, io lo so ritornerà, perché lei cerca sempre il sole, cerca sempre il sole, le cerca sempre il sole, e ci sarà dagli occhi miei. Hai visto il sole? Il sole, la farfalla impazzita, eccolo là! Che bello! Io non la conoscevo questa canzone, che è di Polanka, infatti una dicevo perla. Con la Nenia, ma è lo stesso che cantava Diana? Quando canta alto di gola non ti accorgi, ma quando va più giù si sente, è lui. Polanka. Sì, questa è sconosciutissima. Una delle chicche, una delle rarità che potete ascoltare soltanto sull'Accademia della Busca. Perché chi altro in Radio Wombat vi fa sentire mai queste cose? Vi fanno sentire... Giusto fuoco alle polveri ogni tanto si dedica a questi anni. Bravi, ma bravi. Ma ragazzi, alla fine servono anche questi, servono anche loro. Perché? Per accompagnare una bella mattonata di quelle proprio toste, che è L'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Ve l'avevamo promesso e quindi eccoci qua, possiamo iniziare un po' a parlarne. Perché è importante, perché l'abbiamo inserita? Perché è un'opera questa che possiede una parte retorica ben definita, che è quasi governata dall'allegoria. Ovvero... Cos'è la cosa importante? Che troviamo il concetto di allegoria non soltanto in quelle che sono le figure retoriche che vengono utilizzate per raccontare, per simulare i dialoghi, per dare appunto il famoso colore di cui parlavamo prima, ma l'allegoria fa proprio parte della storia. Perché? Perché il saggio si apre con un elogio da parte della follia in prima persona, cioè se stessa, per cui questa è una personificazione, ma al tempo stesso è anche un'allegoria, e che prende le distanze dai mortali e quindi lascia intravedere la sua natura divina. Infatti, vedi, noi, io, la Nenia e io siamo due creature. Era chiaro da subito, non abbiamo... Come mai? C'è il sole fuori e noi siamo ancora bianche. Perché non ci vuole baciare. Noi e siamo questo creature, è tutto perché dire. Ci teme, perché noi siamo creature divine. Comunque anche dare un po' di colore al testo mi fa pensare che siamo sempre lì, è un testo colorato. Un po', no? Com'è il testo? Cioè. Può avere un colore il testo? Beh, noi glielo diamo, noi siamo affetti da sinestesia, per cui, oltre che essere pazzi, oltre a tutto il resto. Allora, breve sinossi. La follia si proclama figlia di Plutus, dio della ricchezza e della giovinezza, e dice inoltre di essere stata alleata dell'ignoranza e dell'ubriachezza. I suoi più fedeli compagni sono Filautia, la vanità, Colachia, l'adulazione, Lete, la dimenticanza, Misoponia, l'acidia, edonè, il piacere, anoia pure, la demenza, Trife, la licenziosità, Comos, l'intemperanza, ed egretos hypnos, il sonno mortale. Per cui tutti questi nomi in realtà sono delle vere e proprie allegorie, un po' come quelle che noi vediamo anche, non so, nelle pale d'altare, in tutto ciò che ha una dimensione pittorica artistica. Per cui... Vedi, ci risiamo, ci tocca. Ce la possiamo fare. Oggi ho un egreto, sì, ipnosi incredibile. Sì. Guarda, sì. Anch'io, sono un po' idiosincratica. Sì, questo caldo mi butta giù. Quel tempo incerto così. E appunto l'idiosincrasia c'è anche nella follia, dell'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Vediamo subito. Oltre a autoelogi, per cui la follia ovviamente, che in realtà quest'opera cos'è? Una serie di dialoghi, come andava molto all'epoca, per cui c'erano questi libroni fatti solamente di diatribe, dove c'era una figura che generalmente si misurava con altre figure, ed era proprio questa una sorta di percorso allegorico. E abbiamo però anche un sacco di similitudini, perché la follia si descrive come portatrice di allegria e spensieratezza, quindi giustifica il suo autoelogio perché ha una natura schietta, e utilizza per questo appunto un linguaggio diretto. Quindi vedete, anche semplicemente facendo un'analisi di quella che è l'opera, si intravedono un sacco di cosine che si, come dire, si riprendono tutto il discorso sulle figure retoriche che abbiamo fatto fino ad oggi. La Nenia mi guarda e solleva il sopracciglio. Mazzo. Quindi la pazzia è grande, ha un'utilità ed è utile per la felicità dell'essere umano, quindi si rivela insita in esso sin dalla nascita, che non potrebbe venire senza la sua presenza, verissimo. Questo. E ci accompagna per tutta la vita, aiutandoci nelle relazioni interpersonali. Mi sono venute in mente delle persone in questo... guarda, mi si sta rivelando proprio... e nell'autocompiacimento fino alla vecchiaia. Tutti gli esseri umani, oltretutto, qui ovviamente, essendo insomma, ai tempi di Erasmo, abbiamo una scala gerarchica dell'epoca, re, pontefice, vescovi, monaci, laici, anziché curare gli aspetti spirituali e interiori dell'individuo, con i loro comportamenti inseguono follemente ciò che è terreno e transeunte. C'è scritto qualcosa qui nella scaletta che effettivamente io ho voluto leggere, forse era trascendentale, sì. E che è destinato a finire: gloria, potere, ricchezza, lusso e successo. Abbiamo io direi che ti devo fermare così, qui. Perché ti voglio prima far sentire una cosa bellissima. Quale vuoi? Questa o questa? Quella sotto. Pronti? Beh. Questo vi tocca, questo vi sentite? Tocca, vi toccherà spesso. Pronti, partenza, vai. Questo invece era l'elogio alla genialità, delle persone che hanno composto questo piccolo stacchetto musicale. Erasmo avrebbe detto che è follia pure questa. No, è pura genialità. Bellissimo. È genia questa. Prima Moria, vedevo la Moria. E mi veniva Moira. Moira. Cosa vuole dire della Moira? Immaginavo la Moira Orfei. Ho il cervello in panne. Tra l'altro, ho le allucinazioni. Le allucinazioni di Moira. Di Moira Orfei. Io ho visto l'altro giorno sotto, siccome si sa, Radio Wombat è la radio di Firenze, e nonostante ci siano un po' di fiorentine qui in regia, ho visto sotto il ponte all'Indiano, mi sembra, o in quella zona lì, i manifesti del Circo Orfei, e utilizzano ancora la figura della povera Moira. Perché è deceduta, giusto? Sì, da un pochino. Ah, povera, vedi. Perché... Dai, su, siate buoni, povera Moira. Ma forse era un manifesto molto vecchio. Ma sai, lì non piove, non si bagna. Il trucco di Moira allora rende benissimo anche sulla carta. Wow. Perché è morta 2 anni fa e è ancora lì. È ancora lì, per cui insomma, secondo me... Neanche con una ventata. Che? Ma quella... Fantastica. Vabbè, e quindi dopo le grandi donne abbiamo il pezzo di una... Stavo grande... Stavo per dire una cosa terribile, ma la dico solo sì, me la faccio dire in privato. Bye bye. Swaying romance. Questa non potete non riconoscerla, era lei. Massimo romanticismo, prima di tutto. Madonna. Era veramente un pezzo strappalacrime. Quindi da ballare abbracciandosi, sì, tutti stretti, sì, stretti, proprio ballo del mattone, caldo. Proprio mattonissimo, mattonella strettissima, senza fare gesti. La mattonella del bagno, no, io non ho fatto nessun gesto. Mi sono limitata alla battutaccia di prima che ovviamente ho raccontato a Nenia, ma lei aveva già capito quello stavo per dire. Per questo mi sono avventata sul mixer. Ma insomma, dai, raccontaci tante cose coltissime. Ritorniamo un attimo sulla follia, cioè perché si parlava dell'allegoria come figura retorica che all'interno di Erasmo da Rotterdam rende la follia, ci dà proprio l'idea. Perché la follia viene rappresentata allegoricamente come una dea in veste di donna, che è appunto, come dicevamo prima, l'origine di ogni bene per l'umanità e anche per gli stessi dei che riceverebbero al pari dei mortali i suoi doni. E infatti, questa sarebbe... un incipit di tatuaggio. Io sola sono prodiga di tutto, sono tutti prodiga di tutto. Però con un errore e poi con una cancellatura è scritto sopra la correzione. Io l'errore di tutto, totti. Di gli errori, totti. Bellissimo. Si fa. Vai, andiamo a farcelo insieme. Vai. Sì, sì. E, quindi è questo. Cosa troviamo nell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, che è un'opera in prosa, un sacco di allegorie e anche qualche personificazione, ma d'altronde l'allegoria e la personificazione vanno di pari passo. E, leggetelo, perché in realtà, nonostante... Sto pensando a tutte le varianti di questa scritta da farmi tatuare con degli errori. Mi dici? Sono venute delle cose fantastiche. Ma... Brava, io sono una sola. Io sola. Che sola. Vabbè, andiamo avanti. Scriveteci scusami. A postawombat@insiberia.net una vostra, un anagramma di io sola sono a tutti prodiga di tutto. Scrivetecela, il più bravo verrà premiato con un aperitivo offerto da qualche parte in giro per la città dalla Neni alla Nina. Iu, figo. Vai, bravo. Però quando fa meno caldo. Ecco. Ecco. E poi, mattonata number two. La introduciamo? Eh sì. Questo è un audio però, per cui insomma è lunghino, magari lo tagliamo, ci sono un sacco di momenti di silenzio. Beh, ascoltiamolo però un pezzo, intanto... vediamo, dai, io sono ottimista. Arbuscelli in sull'ombrosa riva. Ed ora che vi ho fermi gli occhi e fitti, credo che son di man della mia diva. Qui Angelica in Medor con 100 nodi legati insieme, in 100 lochi io vedo. Quante lettere son, tanti son chiodi con che per gli occhi il mio cuore mi fiedo. Dei luoghi circostanti qui sta scritto in carbone ed anche in gesso e con le punte dei coltelli è impresso, ma questa scritta arabica qui penso mai tradurre ed è questo il suo senso. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelonca opaca e di fredde ombre grata, ove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui n'è data, io, povero Medoro, ricompensarvi d'altro non posso che d'ognor lodarvi. Sei letto lo scritto, oimè infelice, e pur cercando invano che non vi sia tutto quel che v'è scritto, e sempre più lo vedo chiaro e piano. Qui resto al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente. Io vedo Orlando, il furioso conte, che dalla sua follia vien qui sospinto. Ha quasi gli occhi ascosi nella testa, la faccia magra, come un osso asciutta, la chioma rabbuffata, orrida e mesta, la barba folta, spaventosa e brutta. Noi vogliamo fuggir, ne sappiamo dove. E presi siamo da subitanea tema. Il pazzo verso noi il ratto si muove, sempre più presso. Ed ha possanza estrema. Son qui 10 persone e 10 che senza ordine alcun gli andaro in mano. A Orlando, il re del ciel, tal forza diede per porlo a guardia di sua santa fede. Ora mi mi metto a piangere. Questo era la... non so se qualcuno l'ha capito, penso di sì, perché abbiamo degli ascoltatori molto colti. Sì. Era il canto dell'Orlando Furioso legato alla pazzia di Orlando. Questo è uno stralcio preso da uno sceneggiato Rai del 74, diretto da Ronconi e dal fratello, perché adesso mi sfugge il nome, di Tati Sanguinetti, che se Tati Sanguinetti è uno dei più grandi critici di cinema italiano, soprattutto sull'horror e il terrore, il fratello era un grande, perché penso sia ancora un grande regista di sceneggiati fatti bene come li facevano una volta, quindi con un'impronta teatrale molto molto molto importante. E io dopo di questo però vi devo far sentire abbiamo la pillolina, l'altra pilloletta. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Io voglio posso sapere chi è dei nostri che ha fatto sta posso cosa. Posso rimetterla? Sì, ti prego. Prego. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Siete dei mostri. Sappiamo chi siete voi che avete fatto questo jingle. Sappiamo dove abitate. Vi obbligheremo a venire qui e a fare una lettura in diretta di tutto l'Orlando Furioso, tutto intero e ovviamente con i vari ruoli. Oddio. Vediamo chi sarà Orlando e chi invece è Mandricardo. Ecco. Con un nome del genere secondo me fanno spallate. Sicuro. Allora... Mucara, cosa ci dici? Ve lo dico perché io essendo ferrarese alla fine Mucara. Non potevo non mettercelo. Il mio adorato Ludovico Ariosto con l'Orlando Furioso. Questo è il canto 24esimo, ma non ne sono sicura, mi sa che mi sto sbagliando, della pazzia di Orlando. Perché abbiamo, dopo Erasmo da Rotterdam, abbiamo messo lui, beh, intanto per la tematica della follia, perché appunto Orlando è folle. Se non ci metti lui, chi ci metti? Da metà opera fino alla fine, con il ritratto splendido della morte, insomma, Orlando ci dava in quanto pazzia. E perché ho voluto inserire lui? Lo dicevo anche con la Nenia prima. Perché abbiamo... un sacco di figure retoriche come le perifrasi, il polisindeto, abbiamo la personificazione, il climax, abbiamo metafore, similitudini e soprattutto una storia bellissima che se non fosse stata scritta con tutte queste figure retoriche probabilmente non sarebbe, uno, non sarebbe stato un componimento poetico, e due, non ci sarebbero state. Sarebbe arrivata a noi con tale importanza. Esatto. Con tale... applausi al Sanremo. Bravo! Bravo Orlando! Poverino, poi muore alla fine. Ma non dirlo! Non ci spoilerare l'Orlando! No, non ci... Allora, io avevo un po' di proposte per le magliette della Brusca, ve le metteremo a votazione. Questa è non ci spoilerare l'Orlando Furioso. Allora, vedi i bimbi davvero, ma... No, non ci spoilerare Romeo e Giulietta, ma come? Ma non lo sai la fine? Ma dove vivi? No, ma voglio dire, ora, ok, non hai letto il libro, ma tra tutti i film che hanno fatto qualcosa ti sa, e poi c'è nel senso, non ce lo spoilerare, vabbè, ok. È abbastanza facile, a parte che muoiono soltanto loro due, per cui sì, nel senso, non è che ti devo spiegare una trama. Bellezza, allora. Vabbè. E invece, tra Orlando e Mandricardo, oddio, non ce la farò mai a non ridere senza dire Mandricardo. Chi vince tra i due? Romeo e Giulietta. Esatto, perché il canto della pazzia di Orlando parte proprio così. Ve la faccio bella corta, perché è un canto infinito e lunghissimo, abbiamo solo 10 minuti. Allora, anche un po' meno. Semplicemente, lo scontro tra Orlando e Mandricardo, che era il suo rivale, era sospeso, quindi il cavallo da re di Tartaria e l'aveva praticamente portato via il re, e quindi Orlando rimane con la sua durindana, la sua spada, fermo. Mi sembra di essere tornato al liceo. Tornano indietro. Durindana era il nome di un gatto che c'era nella corte di casa mia quando ero bambina, per cui me lo ricordo. Che bello. E quindi cosa succede? Orlando, da bravo uomo d'onore, diciamo, bravo cavaliere, rimane ad aspettare 3 giorni Mandricardo. Ma Mandricardo non torna. E quindi Orlando vaga per giorni senza meta all'interno di questo bosco. E rientra appunto tra i cespugli per riposare. E appunto Orlando cosa trova? Trova sul letto di un fiume un albero dove ci sono scritte incise, che era uno di quei luoghi già descritti nell'opera dove Medoro veniva spesso alla casa del pastore per vedere Angelica. E lui, non si sa se leggendo una scritta equivoca o appunto stremato dai combattimenti, vede Angelica e Medoro intrecciati in diversi modi e in diversi luoghi. Tante sono le lettere, tanti sono i chiodi con quali Cupido gli ferisce e punge il cuore. Quindi, cosa succede? Che appunto non riesce a credere che quella incisa sulla corteccia sia un'altra Angelica. Io conosco, dice, la grafia di queste lettere. Di queste lettere ne ho viste tante. Potrebbe essersi inventato tutto questo Medoro, però intanto ci sta che il povero Orlando impazzisce. E il canto va avanti poi per raccontarci quella che è la sua sofferenza d'amore e tutto il suo, un po' la Twin Peaks quasi, no? Tutto il cambiamento, come fa il padre di Laura Palmer ceppo davanti allo specchio che imbianca, invecchia all'improvviso anche. Ho spoilerato una cosa per voi che non avete visto Twin Peaks. Beh, dai, se dai, non hanno su visto la puntata lì, significa che sono delle schiappe. Voi siete fave. Schiappe. Quindi descrive appunto che gli cade il mento sopra il petto, la fronte che era priva di rughe ed era bassa, si riempie di rughe, non poté per voce lamentarsi, per lacrime piangere, per cui l'impetuoso dolore che voleva uscire rimase dentro e quindi la follia si impossessa di lui. Povero. Poverino. Quindi, tutto per una scritta, vedi? Ho capito. Delle iniziali, magari, cioè proprio una roba. E poi insomma, questi poveri giovani potevano aver avuto un passato prima di Orlando, no? Scusatemi, perché... Sì, donna d'altri tempi. Allora, cosa troviamo? Troviamo perifrasi, quindi queste figure retoriche che vengono utilizzate anche nel linguaggio di tutti i giorni per evitare una ripetizione ravvicinata dello stesso termine. Fontana d'acqua viva così vivace è una di queste. Poi se vi prendete tutto il canto le vedete. Ma abbiamo anche, per esempio, il sole esce 3 volte e torna sotto per evitare di ripetere il susseguirsi del giorno del termine giorno e notte. Abbiamo poi anche il polisindeto, che è l'elenco di termini della stessa frase, o la coordinazione di più proposizioni con la ripetizione della congiunzione. All'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante. Questo è il momento in cui appunto Orlando si trascina tra le varie, diciamo, i vari elementi della natura del bosco per cercare di trattenersi. E abbiamo poi e ceppi, e tronchi, e sassi, e zolle, né quella, né scure, né bipenne, quel letto, quella casa, quel pastore. Quindi queste ripetizioni che vengono coordinate tra di loro da una virgola. Poi la personificazione, che sono le liete piante, che sono l'unico elemento lieto all'interno dell'opera, del canto, perché effettivamente tutto il resto era abbastanza tristo. E il climax, che indica un processo in crescendo di un culmine, diciamo, di un processo. Crede, brama, spera, odio, rabbia, ira, furore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo le metafore, le similitudini, parea cristallo come incauto, lega stretto, così veggian a fatica, pungente come se fosse urtica. E queste sono giusto alcune che Ariosto ha giustamente ben pesato e ben pensato di inserire all'interno dell'opera. Bene, a modino, proprio a modino. Bravo. Infatti si sa che il lavoro di Cesello, di Labor Lime, che ha fatto l'Ariosto dopo aver scritto quest'opera, è stato veramente tosto. Bravo Ariostino. E tutto questo mi è venuto un dubbio gigantesco, dicendo: ma non l'ha scritta il Tasso? Ah, direttamente da Salerno. Eccoci. Oh brava, hai visto che puntata che hai tirato su? Sei contenta? Sì. Gliela dedichiamo al povero Orlando una canzoncina. Però gli dedichiamo questa qui di chiusura. Esatto. Perché noi ve la facciamo sentire la prossima volta. Perché noi siamo un po' impazzite per lui. Sì, sì, ci è piaciuto tanto. A me piaceva tanto al liceo. Sì, anche quest'oggi mi ha fatto piacere. Grazie Nina. Ah, lo sapevo. Grazie Nina, guarda, è stato bello. Siamo impazzite per lui. Io impazzisco anche per te, se vuoi. Oh, oh, cosa salta fuori qui, eh? Ti una citazione. Mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai più saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazziva soltanto per te. Mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. Mai più dolci frasi d'amor sentirai come andì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capì che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non hai e m'hai fatto soffrire. Mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai più saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sei, bimba mia, che impazziva soltanto per te. Impazzivo per te. È finita anche per oggi, in questo giovedì molto afoso. Tanto sì. Non abbiamo in realtà l'agenda, mi sembra. Non ci sono programmi. No, perché secondo me non c'è un granché. Sicuramente c'è qualcosa, però vi rimando ai siti. Rimandiamo ai siti amici, quelli sì. Più... Che c'è? Black Spring e Polveriera possono sì. Fare qualcosa. Quindi libreria Black Spring, so che c'era una mostra, non so se sia ancora presente, ci informeremo. E Polveriera, qualche aperitivo. Sicuramente, qualcosa di carino, loro lo tirano fuori. Maialoni. E poi che altro? Sempre questi aperitivi. Sì, sì. Sì, poi girate un po', riposatevi, ragazzi, andate Firenze, a bere qualcosa di fresco. D'estate, chi riesce a reggere il caldo se la può veramente godere in ogni salsa, perché... se reggete 40 gradi. Esatto, esatto. Boh, va bene. Bene, e grazie per la vostra pazienza. Adieu. Grazie Nina, e ci sentiremo a questo punto prossima settimana, metà agosto, sì. Si schianterà, ma noi ci saremo. Ma noi ci saremo. Dai, dai. Hai detto metà agosto? Metà luglio. Ah, qualcuno corre verso le ferie. Caldo. Caldo. A questo punto facciamo pezzo finale, vi lasciamo con, sì, un pezzettino. E con poi lei. Vi lasciamo con lei super. La super. Si va. Ciao. Ciao. With a very sweet little song. Really. I played in San Francisco and the journalist really, really gave me a very bad review. You can see. La signora di Amanda Galas, perché in realtà abbiamo visto che in agenda ci sono degli appuntamenti, martedì 11 luglio, importantissimi, bellissimi, martedì 11 luglio ore 21:30 Cinema di Castello, inizia la arena estiva con la proiezione di Sotto il confine. Invece mercoledì 12 luglio abbiamo il documentario sul Rojava di Luigi D'Alife e con la voce narrante di Elio Germano, quindi l'estate è bella soprattutto perché ci sono i cinema all'aperto e andate a vedere questi film imperdibili. Ciao! She's raved up your welcome 1 inch off the floor. Baby's insane, baby's insane. Baby's on a trip to the moon again. Your white roses from the funeral page. There's a whole lot of cities where a good man can age. I know that she loves you, but it's time to move on. Don't miss the bus, 'cause baby's insane. Baby's insane. Baby's insane. Baby's on a trip to the moon. He was such a spoiled sport, trying to ruin all my fun. And I wrote that one myself.